Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. In questa puntata, Voglio vivere una volta sola, romanzo poetico e fantastico di Francesco Carofiglio. Un esordiente da tenere d'occhio, Raffaele Riba, autore di Un giorno per disfare. Anniversario della morte di Pasolini, esce l'audiolibro di Ragazzi di vita, letto da Fabrizio Gifuni. Lui è Francesco Carofiglio, sì, è il fratello del più famoso Gianrico Carofiglio, anche lui dunque scrittore. Avevamo già parlato di Francesco Carofiglio a proposito di Walk, un romanzo che mi era piaciuto e che parlava di un ragazzino che attraversava l'America tenendo in macchina le ceneri della mamma. Anche questa volta Francesco Carofiglio torna con una storia strana, è un romanzo tenero, delicato, nello stesso tempo fantastico. La protagonista è una bambina, si chiama Violette ed è una bambina mai nata. Diciamo è l'amica immaginaria di vari componenti di una famiglia. Quindi c'è una donna, la mamma che parla con lei, poi c'è uno dei fratelli che insomma si rivolge a lei ipoteticamente. Il libro si intitola Voglio vivere una volta sola, l'ha scritto appunto Francesco Carofiglio, pubblicato da PM. Ancora una volta dunque, dopo Walk, il protagonista di un romanzo di Carofiglio è un bambino, oppure insomma un adolescente. Come mai questa scelta? Sentiamo cosa ci ha detto. Io mi sento di poter dire che in realtà non l'ho proprio scelto, cioè non è stata una scelta di partenza. Io ho incontrato Violette, il personaggio protagonista di questa storia, un giorno a Parigi a Place des Vosges, su una panchina. Era una bambina che avrà avuto poco meno di 10 anni, con uno strano e buffo abito celeste, delle buffe scarpe fuori misura. E guardava da qualche parte, era sola, io ero seduto di fronte a lei a una decina di metri e mi sono chiesto cosa stesse pensando questa bambina, sola, con lo sguardo assorto, e sembrava guardare un mondo che io davvero non potevo guardare. L'ho anche fotografata, violando una piccola intimità, però quella foto l'ho conservata. E dopo alcuni anni è come se questa bambina fosse venuta a trovarmi per raccontare insieme la sua storia. E è vero che alcuni dei personaggi dei miei romanzi sono adolescenti o bambini, e anche qui io penso che dipenda dal fatto che l'adolescenza, l'infanzia sia il luogo in cui tutto è ancora possibile. Siccome io penso anche per me che insomma l'adolescenza e l'infanzia l'ho passata da un po', come dire, il desiderio sia che tutto ancora sia possibile, forse questo diventa anche una misura persino difensiva nei confronti di quello che ti accade intorno. Per rendere credibile la voce di un ragazzino, nel caso di Walk, di una bambina, nel caso di questo romanzo, bisogna molto pulire proprio la propria scrittura, insomma un po' scomparire come scrittore. Sì. Questo è un lavoro che tu hai fatto? Ma io credo che questo dipenda anche un po' da esperienze differenti della mia vita. Io ho fatto per molti anni l'attore, per una 15 anni, quindi l'idea di, come dire, prendere le sembianze di qualcun altro mi avvicina in un altro contesto. Però è stata una scuola di formazione vera e propria rispetto al fatto di denudarsi, quindi di privarsi di una identità propria per acquisirne, se è possibile, una nuova. È certo che è un lavoro, però è anche un lavoro non, per quanto mi riguarda, come posso dire, troppo puntuale. Mi piace pensare che una volta entrato nel territorio di Violetta, di questa bambina, fosse un po' lei a guidarmi, piuttosto che io a generare il suo profilo, ecco. A me capita, quando scelgo così libri da leggere, di non leggere mai il risvolto di copertina, perché spesso è fuorviante o racconta troppo. Parto sempre dall'incipit e ho trovato l'incipit di questo romanzo veramente incisivo, bello, poetico. Mi chiamo Violette. I miei genitori si chiamano Emma e Leonard, i miei fratelli Jean e Augustin, e io non sono mai nata. In questa frase, io non sono mai nata, c'è tutto il mistero, la magia, la poesia di questo romanzo, perché non si sa, non svegliamo naturalmente la fine, però questa è una bambina in un certo senso immaginaria, cioè tutti i membri di questa famiglia immaginano questa bambina, le parlano, a lei si rivolgono, eccetera, però non si sa se esiste veramente questa bambina o no. Come ti è venuta l'idea di questa bambina immaginaria al di là della bambina che hai visto seduta su una panchina, eccetera, però è un'immagine bella, insomma, per un narratore. Beh, è venuta fuori, io credo, dal gioco che questo meccanismo poteva innescare. A me piace giocare con le storie anche, no? Come quando si faceva da bambini, facciamo che io ero un cowboy e tu eri un indiano, insomma. Allora io ho pensato, facciamo che io ero Violette, che cosa succede? Violetta è una bambina mai nata, perché mai concepita, intendiamoci, non è una storia, viene dichiarato sin dall'inizio, attenzione, questa non è una storia drammatica, o comunque se ha dei risvolti ce l'avrà fisiologicamente, e questa sua presenza-assenza secondo me era l'elemento conduttore che consentiva a me come scrittore di avere delle libertà straordinarie, di raccontare un mondo invisibile, un mondo notturno, un mondo di respiri e suoni della notte, perché lei, Violette, è la bambina che non c'è, e di notte è in questa casa, nella casa dei suoi, e cammina, rimette a posto i libri, si aggira per le stanze, guarda i genitori dormire, ascolta il loro respiro. Ecco, questa cosa, questa forma di leggero voyeurismo dell'intimità affettiva, vorrei dire, è una cosa che mi elettrizzava, perché mi sembrava di poter fare forse una cosa che avrei voluto fare io da bambino. Pensandoci bene, io da bambino mi svegliavo molto presto, al mattino quando tutti dormivano, e giravo per la casa, e prendevo una piccola sedia e mi mettevo a guardare i libri nello studio. Quindi forse Violette c'est moi a un certo punto. Giusto per citare Flaubert, insomma. Violette è anche simpatica, cioè la si segue, a un certo punto lei dice proprio all'inizio del romanzo: accidenti, non sono io che sono nata, ma è nato mio fratello, insomma, certo. Perché lei proprio vorrebbe nascere e tutti i membri della famiglia hanno con lei un rapporto speciale. Sì. Che cosa vedono in questa bambina? La madre che le si rivolge così ipoteticamente, il padre, il fratello, cosa vedono in lei? Beh, ciascuno vede qualcosa. Il rapporto più forte, più stretto è quello con la mamma, con Emma, che vede in Violette, per quello che ci racconta Violette, vede la figlia che avrebbe sempre desiderato. Di fatto vede lo specchio di se stessa. Non a caso alcune scene, anche un po', forse per me, scrivendole un po' struggenti, sono quelle in cui Violette si pettina dinanzi allo specchio della toiletta di sua madre, e si pettina esattamente come sua madre. Chissà, in quel momento è esattamente sua madre a fare, oppure aiuta sua madre a pettinarsi accarezzandola. E poi c'è il padre che, come tutti i padri, vorrebbero o avrebbero voluto comunque una figlia femmina, invece sono arrivati semplicemente due maschi. E i maschi, c'è uno che avrebbe sempre voluto avere una sorella con cui parlare perché era più fragile, l'altro una con cui consigliarsi, comunque perché per come muoversi con le donne. Insomma, i ruoli, come posso dire, istituzionali che ricopre una sorella e una figlia all'interno della famiglia rappresentano l'obiettivo di ciascuno di loro. Però lei è semplicemente Violette, la bambina che non c'è. Mentre per i due fratelli, insomma, si potrebbe pensare a una sorta di amico immaginario, no? Come capita spessissimo ai bambini, per gli adulti assume una connotazione diversa, è quasi una forma di analisi psicologica di se stessi. Cioè, la bambina Violetta guarda a quello che i genitori fanno e pensano, e che riflettono su se stessi e sul mondo. È quasi una forma di psicanalisi, insomma. Sì, diciamo, non ricercata in questo senso, ma credo che sia un'analisi molto giusta. Spesso ci rivolgiamo a un altro che non esiste, ed è anche persino una tecnica dell'autoterapia, quella di parlare con qualcuno che non c'è, per non sentirci soli in quella stanza, quel giorno, in quel momento della nostra vita. Lei non è una terapia, Violette, lei è il contraltare però probabilmente delle loro coscienze, sia di quella di sua madre che di quella di suo padre. Però poi a un certo punto ci sarà un cortocircuito che non svelo, in cui tutto incomincia a mescolarsi e non sappiamo più bene quale sia il confine che divide la realtà dall'immaginazione, e quindi quello che accade realmente, come accade realmente a questa famiglia, è quello che è immaginato da questa bambina che non esiste. Come sempre, i libri, quando vengono letti, insomma, hanno diverse chiavi di lettura a seconda di chi li legge, hanno diversi effetti e così via. Secondo te questo è un romanzo che può essere letto da un ragazzino, da un adolescente? Certo, un adulto coglie probabilmente delle sfumature diverse, ma insomma un ragazzino lo può leggere. Sì, come sempre, come hai detto giustamente, ci sono sfumature diverse che possono essere colte. Io credo proprio di sì. Molti adolescenti lo hanno già letto e molti mi hanno scritto, e rimango sempre stupito dalla capacità di analisi così lucida e a volte spietata nel senso della, come dire, dell'analisi del dettaglio di una cosa che ho scritto, quando a leggere sono proprio i ragazzi. Sì, mi piacerebbe molto che lo leggessero tanto i ragazzi, perché alla fine poi questa non è una storia per adulti o una storia per ragazzi, è semplicemente una storia. Poi, come in tutte le storie, ognuno ci mette quello che vuole. E questo era Francesco Carofiglio, ora in libreria con Voglio vivere una volta sola, pubblicato da PM. E ora voglio parlarvi di un libro, di un esordiente che mi è piaciuto parecchio. Il libro si intitola Un giorno per disfare, l'ha scritto Raffaele Riba ed è pubblicato da 66 and a Second. Questa è una piccola casa editrice nata da alcuni anni in Italia. Tra l'altro l'origine del nome è molto curiosa, perché i due creatori, i due fondatori di questa casa editrice avevano avuto l'idea di crearla mentre si trovavano a New York e si incontravano per parlare di questo progetto all'angolo fra la 66esima e la Seconda Avenue, e quindi da qui è nato il nome di 66 and a Second. Raffaele Riba, giovane autore, veramente giovane, insomma io ci tengo a sottolineare questo, perché ogni volta che noi in Italia diciamo giovane autore poi scopriamo che ha 45 anni, tutto il rispetto, però insomma tu sei un vero giovane autore. Tra l'altro copertina bellissima, sì. E lo so, dovete andare a vederla, c'è una giraffa, che questo è un elefante, altri animaletti, che questa è una, come si dice, una... è un'installazione. Un'installazione, ecco, esatto. Non mi veniva il termine, perché gli animali c'entrano. Cioè entrano in questo romanzo. Allora Raffaele, la prima cosa che mi ha colpito di questo romanzo, e quindi ho deciso questo esordiente da tenere d'occhio, è la struttura del romanzo. È una struttura non per scatole, non è una matriosca, ma ecco, per definirla è come se l'autore accendesse un faro su una scena da punti di vista diversi. Infatti i narratori sono diversi, punti di vista, meglio, non i narratori, sono diversi. Per fortuna all'inizio di ogni capitolo tu ci dici chi è che parla, perché sennò andremo in confusione totale. A proposito, il consiglio a proposito di Un giorno per disfare, sono 140 pagine, quello di leggerlo il più possibile tutto d'un fiato, così appunto non si perde la ricchezza, la bellezza di questa, di questa struttura. Come ti è venuto in mente di costruirlo così? Beh, è stato un passaggio piuttosto lento. Diciamo che i punti di vista a cui accennavi sono quattro, perché quattro sono i personaggi fondamentali. Inizialmente volevo dare... sì, come un po' una struttura a scatole, volevo dare una voce intera a ogni personaggio, cioè un punto di vista che si svolgeva dall'inizio alla fine, finiva quel punto di vista e ne cominciava un altro. Poi, invece poi hai rimescolato le carte per rendere le cose più belle, secondo me. Ho rimescolato le carte perché, sì, appunto, creando distacco, no? Cioè andando a ripescare l'antra la semana. Allora ho deciso che lasciare un personaggio e abbracciarne un altro, per poi ritornare a quel personaggio e poi abbracciarne un altro ancora, dava una sensazione di sospensione, no? Di sospensione, teneva... di movimento, poi si capisce cosa pensano i vari personaggi sui fatti che accadono, perché il fatto eclatante, tanto lo si capisce dalla prima pagina, sì, esatto. Scena, Parigi, Disneyland Paris, Pluto, il ragazzo, la persona che è dentro questo pupazzo, si dà fuoco. Innanzitutto, come ti è venuta in mente questa immagine? Facevo un viaggio stampa proprio qualche anno fa ed ero andato a Disneyland Paris perché all'epoca lavoravo per un giornale di turismo e c'era l'inaugurazione di una nuova attrazione. Non si chiamano giostre, si chiamano attrazione, è un termine bellissimo in realtà e ha tutta una sua filosofia dietro. E facendo un giro per il parco ho avuto questa sensazione particolare di vedere animali veri agli angoli delle aiuole, papere eccetera eccetera, e nella Main Street, nella via principale, che è l'esatta ricostruzione del luogo in cui è nato Disney, vedere questi animali invece finti, antropomorfizzati, Minnie, Paperino, Pluto, e ho avuto come la sensazione di una differenza di potenziale, di elettricità che si creava fra due poli, no? Fra questi animali finti, questi animali veri, e da lì ho avuto un po' questa immagine che poi è maturata. Di un Pluto che si dà fuoco, insomma, c'è una ragione naturalmente perché questo, la persona che si trova dentro Pluto si dà fuoco. Come dicevamo, i personaggi principali sono innanzitutto Matteo Danza, che è un dottorando in etologia, e qui per questo vi dicevo anche gli animali prima. Lui vive a metà fra l'Italia e la Francia, madre francese, papà italiano. È un ragazzo, come molti giovani, apparentemente irrisolto, cioè cerca qualcosa, cerca di affermare se stesso e poi vediamo nel corso del libro se e come ci riuscirà. E la cosa che mi ha colpito di questo personaggio è che lui cerca di, cioè vorrebbe realizzarsi affermando una sua teoria nel mondo dell'etologia, che adesso per riassumere è quella che viene riportata anche nella bandella, cioè che l'uomo è un animale in cattività nella natura artificiale che si è costruito. Però vuole arrivare a dimostrare questo attraverso un percorso, insomma, più complesso. Sì, decisamente. Sì, lui parte da un dato, anzi da una nozione che esiste in realtà in etologia, che è quella del vicolo cieco evolutivo, ossia l'evoluzione di caratteristiche in qualsiasi specie, anzi non in qualsiasi, in alcune determinate specie, che da un lato penalizza l'essere in questione e dall'altro lo agevola. E faccio un esempio per capire bene. Il fagiano argo ha delle ali magnifiche nel periodo dell'accoppiamento, il maschio ha queste esplosioni di colori addosso, e più le ali sono belle, più le ali sono colorate, più lui ha la possibilità di procacciarsi, tra virgolette, la femmina, che gli consentirà di portare avanti il suo corredo genetico. Ma d'altra parte sono un impaccio incredibile quando deve scappare da un predatore, oltre al fatto che richiedono un grandissimo sforzo energetico. Ebbene, l'uomo, dice Matteo, ha un cortocircuito di questo genere, un vicolo cieco evolutivo, nel senso che il mondo meraviglioso che si è costruito, la tecnologia avanzatissima che ha portato avanti, gli permette di vivere con agio e semplicità nel mondo, ma d'altra parte l'ipercerebralità gli causa anche delle scocciature, cioè la lotta fra l'istinto naturale dell'uomo e le regole, e la ragione, le sovrastrutture anche creano una sorta di scompensazione fisica, mentale. Ma insomma, difficile. Qual è la teoria alla fine di Matteo? Cosa dovrebbe prevalere? Alla fine, come dice Matteo, l'uomo dovrebbe ritornare uomo, essere un po' più consapevole. Il suo è un grande messaggio, diciamo. Quello, il suo gesto addirittura. Essere un po' più messaggio. Animale, istintivo o no? No, essere consapevoli che l'istintività fa parte e non è che la dobbiamo relegare in un angolo oppure giudicarla con un'etichetta morale, etica, come bassa o come no, prenderla per quello che è. La scena di Pluto, di questo pupazzo che si dà fuoco, viene poi raccontata, perché proprio all'inizio del romanzo ci sono questi scatti, queste fotografie ipotetiche che vengono scattate da Jacques, che è un giornalista, a sua volta con i suoi problemi perché è malato di Parkinson e così via. Che cosa provoca in Jacques l'aver visto questo pupazzo, ecco, questa persona che è dentro il pupazzo che si dà fuoco? Jacques è in questo momento della sua vita è un po' triste perché è un po' messo ai margini del suo giornale anche in funzione della sua malattia. Aver assistito a questo evento lo rimette in moto, e lo rimette in moto perché scopre che dietro a questo gesto eclatante di Matteo c'è un messaggio e lui in qualche modo si sente chiamato in causa anche in virtù della sua funzione sociale. Lui è un giornalista, è uno che racconta i fatti. Allora scatta questi 5 scatti fotografici, appunto, che ci sono all'inizio del libro, che vanno in sequenza, e a casa, quando li riguarda, capisce che lì c'è qualche cosa. E vuole capire. E allora da lì fa questo reportage emotivo, a ritroso, andando a conoscere i personaggi che nella vita di Matteo l'hanno affiancato. Attraverso anche i diari, perché poi non spieghiamo bene come, ma riuscirà ad ottenere anche i diari, su cui Matteo appunto faceva delle riflessioni, e quindi ricostruiamo anche il pensiero di Matteo attraverso questi diari, poi a noi lettori, raccontati da Jacques. Esatto. Altri personaggi in questo romanzo: Agnès con la figlia Christiane, che a loro volta appunto si incroceranno. Mi verrebbe quasi da pensare a 6 gradi di separazione, insomma, perché poi alla fine del romanzo si capisce che tutti questi personaggi poi sono intrecciati. Nel micromondo di un romanzo ce ne sono anche molti meno di gradi di separazione. Esatto. Gioco forza, si finisce per... Beh, insomma, anche perché abbiamo detto è costruito per voci narranti diverse, punti di vista diversi. Sono 40 pagine, insomma, devono avere qualcosa in comune, perché altrimenti sarebbe un libro di racconti e non un romanzo. Fra le parti che ho segnato di questo romanzo, lo faccio spesso appunto quando leggo delle cose che mi piacciono, ho segnato questa frase: tu scrivi, i bambini non sono una cosa semplice, sono il sedimento di tante risposte, ma fino a quando le loro domande sono limitate al posto in cui crescono, conoscono un mondo alla volta. Anche in questo c'è una visione simile alle teorie che dicevamo prima, cioè quanto l'ambiente che ti circonda, l'ambiente umano naturalmente in questo caso, ma anche fisico, geografico, può influenzare in questo caso la natura di un bambino e poi di un uomo, ma così la selezione naturale anche degli animali. Sì, assolutamente. E mi sembra di capire che ti piacciono parecchio. Sì, mi piacciono parecchio, molto. Animale preferito? Dai, andiamo un po' su. Vabbè, guarda, è di tutto e di più. Beh, credo che se proprio potessi esprimere un desiderio, strofinare una lampada e avere un animale, beh, credo che farei come un altro dei personaggi del mio libro e starei tutto il giorno ad osservare uno scimpanzé. Probabilmente sarei molto più colpito io da lui che lui da me. Vabbè, non sa leggere e quindi, e non è detto, perché se leggiamo il tuo libro, insomma, gli scimpanzé hanno delle capacità quasi umane, mettiamola sì, così, sì. E lui non ti può conoscere perché non può neanche leggerti e quindi, insomma, come dire, conoscerebbe solo una parte. No, comunque è un libro sul comportamento, e il comportamento bravo, ti ho dato del bravo perché hai detto esattamente quello che pensavo in questo momento, sul comportamento umano e animale, che è molto vincolato e molto determinato dall'ambiente circostante, ambiente inteso come coacervo di entità che lo regolano, quindi il comportamento è modificato e assume una propria forma in base a le capacità fisiche dell'ambiente, ma anche alle entità che lo popolano. Una persona deve modificare il proprio comportamento se fa freddo, fa caldo, c'è il sole, ma lo deve modificare anche se intorno ha delle persone che hanno delle loro proprie esigenze. E Matteo, come tutti gli altri personaggi del libro, sono alla ricerca del giusto comportamento. Il giusto comportamento adattativo, perché solo chi si adatta sopravvive o solo chi è più forte sopravvive, perché c'è anche questo dubbio in questo romanzo. L'evoluzione in sé per sé dice che il più adatto sopravvive. Grazie allora a Raffaele Riva per essere stato con noi. Ve lo ricordo, il suo romanzo d'esordio, esordiente da tenere d'occhio, Un giorno per disfare, pubblicato da 66 and a Second. E ora veniamo ad un anniversario, perché il 2 novembre del 75 morì Pierpaolo Pasolini. Tra l'altro l'anno prossimo, quindi nel 2015, ci saranno una serie di celebrazioni, insomma, dedicate a Pasolini, e già iniziano le uscite, pubblicazioni e ripubblicazioni naturalmente di suoi libri a lui dedicati. Ma quello di cui vi parlo oggi è un audiolibro. L'audiolibro è Ragazzi di vita, Pierpaolo Pasolini naturalmente, letto da Fabrizio Gifuni, attore che negli ultimi anni ha studiato sia Pasolini che Gadda, insomma ha portato entrambi anche sul palcoscenico, oltre che in reading, audiolibri e così via. L'audiolibro è pubblicato da Emmons. Sentiamone un breve estratto. Sul cavalcavia della stazione Tiburtina, due ragazzi spingevano un carretto con sopra delle poltrone. Era mattina e sul ponte i vecchi autobus, quello per Montesacro, quello per Tiburtino Terzo, quello per Sette Camini e il 409 che voltava subito sotto il ponte giù per Casal Bertone e l'acqua bullicante verso Porta Furba, cambiavano marcia raschiando in mezzo alla folla, fra i tricicli e i carretti degli stracciaroli, le biciclette dei pischelli e i birroccioni rossi dei burini che se ne tornavano calmi calmi dai mercati verso gli orti della periferia. Anche i marciapiedi scrostati ai lati del ponte erano tutti pieni di gente, colonne di operai, di sfaccendati, di madri di famiglia scese dal tram al portonaccio, proprio sotto i muraglioni del verano, e che trascinavano le borse piene di carciofoli e cotiche verso le casupole della via Tiburtina o verso qualche grattacielo costruito da poco tra i rottami, in mezzo ai cantieri, ai depositi di ferri vecchi e di legname, alle grosse fabbriche di fiorentini o della romana compensanti. Proprio in cima al ponte, tra la marea di macchine e di pedoni, i due ragazzi che trascinavano il carretto a strappi, senza badare agli zompi che faceva sulle buche del selciato e andandosene più adagio che potevano, si fermarono e si misero a sedere sui bordi del carretto. Ed è tutto per questa puntata del Cacciatore di Libri, che vi ricordo trovate anche in podcast su radio24.it. Grazie in regia Valeria Bernardi, ci trovate su Facebook come Il Cacciatore di Libri /Radio24 e su Twitter come Ale Teddina. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.